molto si giocherà subito dopo novembre, quando la Fed farà sapere al mondo quali sono state le sue intenzioni sul quantitative easing. La nostra idea è che probabilmente subito dopo ci potrebbe essere anche un temporaneo recupero del dollaro, perché questo fattore verrebbe ormai prezzato dal mercato, però insomma, come dicevo all'inizio, la prospettiva di avere una Fed in comunque con una politica monetaria ancora più espansiva di quello che si poteva pensare, è una Fed che è una BCE che comunque sta lanciando segnali volti ad assorbire tutta una serie di misure straordinarie che erano state poste in essere fino adesso, gioca ancora a favore dell'euro. Diciamo che la nostra previsione attuale a fine d'anno è per un valore attorno a 1,43. Qualche previsione sull'oro l'avete mai fatta? Pensiamo che possa salire ancora, diciamo in questo momento non vediamo motivi per cui la risalita dell'oro possa in qualche modo ritornare. Quindi se io gli dicessi quota $2,000 l'oncia, lei mi prenderebbe per pazzo, ubriaco o con un po' di senso? Certamente una previsione aggressiva, mettiamola in questi termini. Però il trend di rafforzamento non ci sembra in questo momento destinato a esaurirsi, a meno che non ci sia un sentiment, un cambiamento dei driver dominanti del mercato, che vedono comunque oggi l'oro anche come bene rifugio in momenti di incertezza, perché questi sono ancora momenti in cui il quadro internazionale non è certo chiaro.